Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko in Bologna, Italy, naturalmente sul 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica, ma per il resto del mondo, al di fuori della zona bolognese, abbiamo anche il web con l'apposita app che potete tranquillamente e gratuitamente scaricare dal nostro sito radiocittafujiko.it. E che vi consentirà di ascoltarci in tutto il mondo. È una zona un po' più ristretta per adesso qui in Emilia, in certe zone dell'Emilia per meglio dire, anche in versione DAB, quindi una cosa molto tecnologica. E la trasmissione che sta iniziando, che inizia con questa sigla, che è sempre Eric Clapton con Laila, è una trasmissione che si chiama Città Fujiko Live Club e che per 2 ore si propone di farvi ascoltare musica registrata dal vivo ufficiale di quasi tutti i generi e di tutte le epoche. Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità e oggi non è da meno. Oggi è una novità in formato big, nel senso che è un doppio CD più DVD di un concerto che si è svolto a Berlino il 16 luglio del 2022. È l'ennesimo album live di una band britannica che si chiama New Model Army. I New Model Army provengono da Bradford in Gran Bretagna e sono attivi dal 1980, quindi tantissimi anni anche loro, sempre con Justin Sullivan, cantante e chitarrista alla guida e anche unico membro costante all'interno della formazione, cioè intorno a lui hanno ruotato nel corso di questi 45 anni un sacco di altri musicisti, ma lui è rimasto sempre lì. La loro musica è un po' di tutti i generi, è difficile da catalogare, partirono come post-punk e poi sono diventati folk, insomma ci mettono un po' di tutto. Quasi tutti i pezzi sono scritti da Justin Sullivan stesso, che a seconda delle proprie inclinazioni musicali poi proietta tutto ciò nelle sue composizioni. Come dicevo, hanno fatto parecchi album live, di cui fra la parentesi uno insieme all'orchestra, così mi riallaccio alla settimana scorsa, che non è questa occasione. In questa occasione, come dicevo, un doppio CD più DVD, sono stati registrati il concerto del 16 luglio 22. È stato registrato in un locale di Berlino che si chiama SO36, la dico l'italiana perché non so assolutamente niente di Germania, a parte Heine Mass, che sarebbe un bel litrozzo di birra, ma questo andiamo avanti, un altro discorso. E questo doppio CD più DVD ha inoltre una sorpresa nelle prime copie o nei pre-order, adesso non ricordo bene, io l'ho preordinato proprio perché insieme al doppio CD e al DVD c'era una download card che ti aiutava, diciamo, ti permetteva di scaricare praticamente un altro concerto, un altro doppio CD con i pezzi che sono stati suonati in altri concerti, sempre nello stesso posto, sempre al SO36, che è un piccolo locale berlinese che però fa sempre un'ottima programmazione. Dopo tutte queste chiacchiere ci andiamo ad ascoltare New Model Army. Il brano che ho scelto per voi è un'educazione liberale, si chiama A Liberal Education, New Model Army. We are Si chiama Liberal Education, New Model Army, da questo nuovo album live, Live SO 36, lo dirò sempre all'italiana. E New Model Army hanno un grandissimo successo, naturalmente sempre a livello amatoriale, diciamo così, però hanno un folto pubblico che li segue, soprattutto in Germania. Silent in the car. E spesso e volentieri, come anche in questo caso, il pubblico canta tutte le canzoni della band durante i concerti. Addirittura c'è un album live che si chiama 100 Voices, nel quale è rappresentato un concerto nel quale il cantante, appunto Justin Sullivan, è salito sul palco all'inizio del concerto e ha detto: ragazzi, io sono senza voce, mi è andata via improvvisamente mezz'ora fa, non ho voluto annullare il concerto, per cui dovete cantare voi. E infatti queste centinaia di voci cantano tutte le canzoni della band al posto di Justin Sullivan. È veramente una cosa abbastanza anomala e praticamente, oserei dire, incredibile. Si chiama Live SO36, la novità che vi propongo quest'oggi: doppio CD più DVD più la download card, che vi permette di scaricare un altro doppio CD, una cosa veramente un bargain, oserei dire. E come si sa, la Germania è un paese molto, chiamiamolo rock, nel senso lato, in tutti i sensi. E ci sono un sacco di concerti, anche cose che qua in Italia non arrivano. Appunto, New Model Army sono uno di questi, hanno suonato pochissime volte dalle nostre parti. E per cui soprattutto Berlino è un fulcro musicale assoluto, questo lo conoscete, lo sapete sicuramente. Per cui la prima parte di questa trasmissione di oggi, 7 maggio 2025, sarà tutta imperniata su registrazioni effettuate a Berlino. E cominciamo da una vecchia band di tanti anni fa. Venivano da Birmingham, Gran Bretagna naturalmente, e sono stati attivi dal 1978 al 1983. Erano un gruppo misto, due maschietti e due femminucce che suonavano una musica indie, ante litteram, oserei dire. Avevano molto interesse per quel che riguarda le liriche contro il sessismo e contro per denunciare la situazione femminile, e non hanno avuto successo, purtroppo. Hanno fatto solamente due album in studio e un album live, che è quello che ci andiamo ad ascoltare, che è stato registrato a Berlino. Era il 20 giugno del 1981 al Women's Festival, al Tempodrom di Berlino, appunto, è stato registrato questo brano che si chiama Diet. Loro si chiamavano Au Pairs. The car, he the sink, she's not here to think, sits with a paper, discuss the news, she doesn't have political views, little one, can't get to sleep, mama, my night dress is hurting me, for that any. What does she do? Never got the comfort, oh little one. Press haya, nothing can set the haya. Then it's just white than white, gleaming a little bright. Body flows, body flows. She gleams with flash, with flash. Drop the bomb, it doesn't scratch. As it dances, Mr. Shin. He won't love it, he won't feel Cosa è successo al mio rock and roll? Si chiedono i Black Rebel Motorcycle Club, band di San Francisco che io apprezzo tantissimo e che ha pubblicato il primo album live, che è quello che ci siamo ascoltati, con la conclusiva, appunto, Whatever Happened to My Rock and Roll. E loro sono un trio che viene da San Francisco, è attivo dal 1998 e ne abbiamo visti anche diverse volte qua in Italia. Questo live è esattamente il contrario della novità che vi propongo quest'oggi, che avevo detto due CD più DVD. Qui invece abbiamo due DVD più CD e quindi è il contrario, ma il CD è molto interessante. È stato registrato fra Glasgow, Dublino naturalmente, e Berlino, e questa era la parte finale del concerto, come sempre, al Fritz Club in Postbahnhof di Berlino, il 27 di novembre del 2007. Questa la so, Postbahnhof è praticamente la stazione delle poste di Berlino. E a tutti gli appassionati di buona musica, quando si parla di Berlino viene in mente la trilogia berlinese di David Bowie, e a quella trilogia, esattamente a Heroes, partecipò anche Mr. Robert Fripp, che prestò la sua chitarra in quel capolavoro che si chiama Heroes. E siccome Robert Fripp è un grafomane, so esattamente che 39 anni e un mese dopo l'incisione della sessione originale insieme a David Bowie, i King Crimson riproposero a Berlino questa Heroes. Era il 12 settembre del 2016 all'Admiral Palace. Ce ne andiamo ad ascoltare. King Crimson, Heroes. Never. We can be heroes. We'll be right back. inconfondibili e sempre entusiasmanti per quel che mi riguarda, questi Weather Report, grande band fondata da Joe Zawinul e Wayne Shorter, tastierista il primo, sassofonista il secondo, fondata, dicevo, nel 1970 e scioltosi nel 1986. Hanno fatto diversi album live, alcuni dei quali usciti postumi, cioè dopo il 1986, tipo due album che sono stati registrati a Berlino, uno nel 1971 e l'altro nel 1975. Ho scelto quest'ultimo perché è un po' più accessibile, diciamo così. Nel 71 i Weather Report erano veramente più che jazz, erano avanguardia ed erano veramente tostissimi. Questo Live in Berlin 1975 è un CD, un DVD, è stato registrato alla Philharmonie di Berlin, di Berlino naturalmente, il 6 novembre del 1975. Ha due particolarità, una brutta e l'altra abbastanza indifferente, no, a parte gli scherzi. Quella brutta è che dura solamente 40 minuti ed è veramente un peccato, e l'altra è che alla batteria siede Chester Thompson, grande batterista che di lì a poco sarebbe diventato il batterista di supporto, diciamo il secondo batterista di quelli che ancora si chiamavano Genesis, ma che in realtà si sarebbero dovuti chiamare Phil Collins Group. Ma il brano che siamo ascoltati si chiama Freezing Fire ed è stato registrato appunto nel 1975 a Berlino. Una delle band più osannate degli ultimi anni, anche se secondo me un po' troppo, viene da Oxford, dall'Oxfordshire per meglio dire, sempre in Gran Bretagna, ed è attiva dal 1985. Si chiamano Radiohead, hanno realizzato un album live ufficiale più due che si potevano scaricare gratuitamente dal loro sito, condizione veramente benemerita. Hanno fatto diversi singoli però con canzoni dal vivo, anzi tantissimi a dire il vero. Questo è uno di quelli, ha come brano di punta No Surprises in studio, e due brani live. Uno è stato registrato a Firenze e farà parte di un'altra trasmissione. Invece Airbag, che è quello che ci andiamo ad ascoltare, è stato registrato all'Huxley Neue Welt di Berlino appunto il 3 novembre del 1997. Radiohead. hanno un grande successo in Gran Bretagna, scarsi applausi in questo caso, un posto molto piccolo, quello dove hanno suonato il 21 novembre del 2006 a Berlino i Kaiser Chiefs, che come dicevo hanno un grande successo in Gran Bretagna, ma al di qua della Manica molto molto meno, oserei dire. Loro vengono da Leeds, sono attivi dal 1996, però per qualche anno si sono chiamati in modo diverso, prima Ruston Parva, poi solamente Parva, poi sono passati a Kaiser Chiefs, non chiedetemi perché. Qui che quello che ci siamo ascoltati è un promo CD single, cioè quello che veniva una volta mandato alle radio per promuovere una band, in caso specifico appunto i Kaiser Chiefs. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Admire You ed è stato registrato alla Kessel House di Berlino il 21 novembre del 2006. Scusate, avevo lasciato un attimo in pausa. E niente, Kaiser Chiefs, come vi dicevo, hanno fatto diverse cose dal vivo, e questo era un promozionale che non troverete nei negozi, ma chiaramente sulla solita eBay e anche su Discogs si può trovare. A concludere questa piccola rassegna di brani registrati nella capitale tedesca arriva Mr. Willy DeVille, grandissimo personaggio, uno dei miei preferiti in assoluto, è stato con i Ming DeVille dal 1974 al 1986, poi da solo, con una carriera che non ha avuto molta fortuna dal punto di vista commerciale, ma con concerti veramente splendidi. Purtroppo ci ha lasciato nell'agosto del 2009 e niente, personalmente mi manca veramente tantissimo. Il brano che ci andiamo ad ascoltare arriva da un doppio CD che si chiama Acoustic Trio Live in Berlin, e in realtà a Berlino è registrato una parte e mezzo dei due CD, l'altra è stata registrata a Stoccolma, ma questo non ci interessa. A noi interessa che il 21 marzo del 2002 il buon Willy era in concerto appunto alla Columbia Halle di Berlino, e il brano che ci andiamo ad ascoltare è una cover, un classico della musica blues di Arthur Alexander, si chiama You Better Move On. Lui è Willy DeVille. You ask me to give up the hand of a girl I love. Man, she might. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte che è iniziata come sempre con la novità che vi propongo in ogni trasmissione. Oggi è la volta dei New Model Army, il loro ultimo album Live SO36, che è il nome del locale di Berlino in cui è stato registrato questo doppio CD più DVD, ma dove è stato registrato anche un altro concerto che potete scaricare grazie alla download card che è inserita all'interno della confezione di questo album. New Model Army, come vi dicevo, una band capitanata da Justin Sullivan da sempre, che ha fatto un sacco di album live. Questo è l'ultimo in ordine di tempo ed è molto interessante, una buona band sconosciuta ai più, oserei dire, ma che sa il fatto suo, anche perché sono 40 anni che sono in giro. Quindi il brano che ci siamo ascoltati è uno dei tantissimi brani, fra parentesi, che si chiamano Bittersweet. Nella seconda parte di Città Fujiko Live Club, come ormai dovreste sapere, arriva però Recorded Today, brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Tantissime cose ancora una volta registrate in questo 7 maggio, e il criterio però è sempre quello, un brano per ogni decade. Oggi ne abbiamo ben 6, vedremo se riesco a farveli ascoltare tutte. Quindi andiamo a iniziare subito con una cosa super. Siamo nel 1972, una delle poche tour, uno dei pochi tour che i Grateful Dead hanno fatto in Europa. È stato catalogato, è stato suonato, è stato pubblicato in tantissime versioni. Grateful Dead credo che abbiano il record assoluto di live album quando erano insieme, cioè fino al 1995, che è l'anno in cui morì Jerry Garcia, il loro leader, e da lì partirono uno, Dick's Peaks, che era una serie di concerti pubblicati appunto selezionati da Dick, che purtroppo poi ci ha lasciato anche lui, e il bastone, il testimone, è passato a Dave con i suoi Dave Peaks, che sono arrivati a un numero esagerato. Qui abbiamo un quadruplo album che è stato registrato in Inghilterra nel 1972 in diverse occasioni e in diverse serate. Si chiama Stepping Out with the Grateful Dead, England 72 appunto. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato il 7 maggio del 1972 al Bickershaw Festival nel Lancashire in Gran Bretagna, ed è uno dei brani più corti che sia possibile trovare nella produzione dei Grateful Dead, pur con i suoi 6 minuti e 41 secondi, Rumble on Rose. Just like Jack the Ripper, just like Mojo Hey. sono stati gli iniziatori del movimento jam bands, quello che poi vede ultimamente epigoni come Fish o come White Street Panic e altri. Loro sono stati sicuramente i primi a fare concerti chilometrici, set list diverse da sera a sera e uno zoccolo duro, un bello zoccolo, forse anche due di fans che li seguivano everywhere. Ad ogni concerto c'erano praticamente sempre le stesse facce, cosa quello che succede anche con Bruce Springsteen, fra parentesi, ma questo è un altro discorso. E niente, sono stati grandissimi, come vi dicevo, sono stati attivi dal 1965 al 95, anno della morte di Jerry Garcia. Fra parentesi, come dicevo, hanno pubblicato loro o chi per loro centinaia, non sto scherzando, centinaia di album live che in alcune occasioni sono anche dei cofanetti abbondanti, nel senso che questo tour britannico dal quale è stato tratto questo quadruplo CD che si chiama Stepping Out with the Grateful Dead, è stato pubblicato un cofanetto con tutti i concerti che hanno fatto in Europa durante quel tour, credo se non ho una ventina o giù di lì, naturalmente il prezzo è esosissimo, a questo però bisogna aggiungere anche le spese postali che sono quelle che fregano veramente noi europei rispetto a quello che sono gli Stati Uniti. Comunque il brano che ci siamo ascoltati, Ramblin' Rose, è stato registrato al Bickershaw Festival nel Lancashire in Gran Bretagna il 7 maggio del 1972. Siccome la mia esperienza musicale di ascoltatore, purtroppo solamente, è oramai lunghissima, da tantissimi anni, ho ascoltato, senza esagerare, milioni, oserei dire, di cantanti. Però uno dei migliori in assoluto è un cantante abbastanza sconosciuto che si chiama David Shurkamp. Lui era il leader dei Pavlov's Dog, grandissima band americana che prossimamente vi farò ascoltare. E dopo lo scioglimento di questa band si unì in diverse occasioni a diversi gruppi e ne formò uno insieme a un chitarrista fuoriuscito dai Fairport Convention, era uno dei fondatori dei Fairport Convention e di un'altra band che si chiamava Matthew Southern Comfort, che fece una versione di Woodstock che ebbe un grande successo anche qua in Italia. Nel 1981 si unirono e fondarono una band che si chiamava Hi-Fi, Alta Fedeltà appunto, che però non è durata tantissimo, infatti sono poi sciolti nel 1982 perché erano due personalità veramente molto molto forti e in questo caso c'è sempre qualche problema. Hanno fatto solamente un album e questo extended play che ci andiamo ad ascoltare, un extended play che si chiama Demonstration Record, appunto essendo il gruppo Hi-Fi questo era un disco dimostrativo, quelli che si usavano una volta nelle sale d'ascolto. E il tutto è stato registrato al Bear Creek in Montana il 7 maggio del 1981. Un'altra cover dopo quella che ci siamo ascoltati da Willie DeVille, questa si chiama Man in the Station, un brano di John Martin rifatto alla grande il 7 maggio 1981 degli Hi-Fi. Oh, tight, let the fuckers get it on sight. Si chiamavano Hi-Fi, alta fedeltà in pratica, David Schurkamp e Ian Matthews, sono durati pochissimo, come vi dicevo, il tempo di un album e di questo extended play che è stato registrato il 7 maggio del 1981 a Bear Creek in Montana, il brano Man in a Station by John Martin. Ci sono innumerevoli gruppi in Gran Bretagna che poi sono abbastanza sconosciuti nel resto del mondo e soprattutto qua in Italia, dove siamo sempre alla ricerca della sensazione e mai delle basi. Queste decine di gruppi che vi dicevo sono la base dal quale poi nascono le grandi band e ce ne sono tantissime. Una di queste si chiamava Three Colors Red, i tre colori rossi, che venivano da Londra, sono stati attivi dal 1994 al 1999, poi si sono riformati nel 2002 per poi sciogliersi definitivamente, forse, non si sa mai, nel 2005. E loro hanno avuto successo appunto in Gran Bretagna negli anni 90, hanno fatto solamente un album live ma tanti tanti singoli con brani dal vivo. Questo è uno di quelli, si chiama This Is My Hollywood, questa è la mia Hollywood, che è stato pubblicato come CD singolo in due versioni e anche un 7 pollici, ogni versione con pezzi live diversi. Quello che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato a Wolfram Hall di Wolverhampton, Gran Bretagna, il 7 maggio del 1997. Si chiama Pure e loro si chiamavano Three Colors Red. Doesn't mean you couldn't be pure. talking. Come on, talk to me, baby. Talk to me, baby. E come dico spesso, una cover al giorno non leva il medico di torno, ma fa sicuramente bene. Oggi ve ne ho già fatto ascoltare tre, e questa era la terza, e quindi spero che stiate benissimo. Lei è Beth Hart, ve l'ho già fatto ascoltare diverse volte, grande cantante, grande personaggio, che si è risollevata dopo anni di oblio con grossi problemi dovuti alla droga, e poi anche in seguito alla collaborazione con Joe Bonamassa sta avendo veramente un grandissimo successo. Lei che però ha cominciato, fra parentesi, come pianista classica, ha cominciato a suonare il piano a 5 anni, poi è passata ad altro, come si suol dire. Ha fatto 4 album dal vivo, lei viene da Los Angeles, California, ha fatto 4 album dal vivo, fra cui uno appunto con Joe Bonamassa. Questo invece è il primo album live che ha fatto, registrato al Paradiso di Amsterdam. Il Paradiso è una vecchia chiesa sconsacrata che da decenni è uno dei punti musicali rock più importanti d'Europa. Il tutto il 7 maggio del 2004 e il pezzo non credo abbia bisogno di presentazioni, ma chi è vissuto su Marte fino ad oggi di rock, che si chiama Whole Lotta Love ed è un brano delle Zeppelin. Wow, man! Can't believe it! It's so nice, man! It's a trip! Gli anni 2010 in poi, dal 2010 al 2020, sono rappresentati da un indie band britannica che si chiama Vaccines. Vengono da West London e sono attivi dal 2010. Come of Age è il loro secondo album dal vivo, il secondo album in studio, scusate, che è stato pubblicato nel settembre del 2012, ma c'è anche una versione doppia con un secondo dischetto live, che è quello naturalmente che interessa a noi. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, come del resto tutto questo concerto, è stato registrato al Brighton Center di Brighton in Gran Bretagna il 7 maggio del 2012. Il brano che ho scelto per voi è un brano che ci presentano loro stessi. All right, we're gonna play you another new one now. This one is called Widow. You know I'm not a widow. Tipico esempio di quello che vi dicevo in precedenza è che dico spesso una band molto apprezzata, molto conosciuta, molto in voga in Gran Bretagna, ma abbastanza sconosciuta alle nostre latitudini. Si chiamano Vaccines, vengono, come dicevo, da Londra, hanno registrato questo concerto che è stato inserito nella versione deluxe del loro secondo album che si chiama Come of Age, e il tutto è stato registrato il 7 maggio del 2012. Come hanno detto loro stessi, il brano si chiama Weirdo. Siamo arrivati alla conclusione, ce l'ho fatta. Infatti la sesta decade che ci andiamo ad ascoltare è rappresentata da un album del 2021. È un chitarrista che viene da Santa Barbara, California, si chiama Lester Green, e ha fatto 3 album dal vivo, questo è l'ultimo, si chiama Alive in the New World. È stato registrato al City Winery di Chicago durante una serie di 6 concerti che racchiudeva appunto anche il 7 maggio. La curiosità è che a suonare la batteria c'è un chitarrista, è un chitarrista molto bravo, anche discretamente famoso nell'ambito blues, che si chiama Tab Benoit, che in questo caso suona la batteria, quindi un tizio parecchio eclettico. Prima di dire il titolo però vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì più o meno dalle 10.30 alle 12.25, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, più il web, più il dub. Vi lascio appunto in compagnia di Alastair Greeny, il brano che ho scelto per voi si chiama No Longer Amused, vi ringrazio naturalmente per l'ascolto. Ciao a tutti da Nevio.